Questa. Aveva dormito. Ad alta voce, Rolando Ravello legge Il grande Gatsby di Francis Scott Fitzgerald, traduzione di Tommaso Pincio. Il giovanotto greco di nome Michaelis, che gestiva il piccolo caffè accanto alle montagne di cenere, fu il principale testimone dell'inchiesta. Aveva dormito nella calura fino a dopo le 5, quando era passato la rimessa trovando George Wilson accasciato nel suo ufficio. Stava male, molto male, ed era pallido come i suoi capelli slavati e tremava tutto. Michaelis gli aveva consigliato di mettersi a letto, ma Wilson si era opposto, sostenendo che così avrebbe perso un sacco di lavoro. Mentre il vicino cercava di convincerlo, un frastuono violento si scatenò al piano di sopra. «Tengo mia moglie chiusa a chiave», spiegò Wilson con calma. «Resterà lì fino a dopodomani, poi ci trasferiremo». Michaelis rimase sbigottito. Erano vicini da 4 anni e Wilson non gli era mai parso minimamente capace di uscirsene con una frase simile. Di solito aveva l'aspetto di un uomo sfinito. Quando non lavorava si sedeva sulla soglia e guardava la gente e le auto passare. Se per caso gli rivolgevano la parola, immancabilmente lui rideva in modo educato e incolore. Era l'uomo di sua moglie, non di se stesso. Fu pertanto naturale che Michaelis cercasse di scoprire cosa era successo, ma Wilson non apriva bocca. Cominciò invece a lanciare occhiate incuriosite e sospettose al visitatore e gli chiese cosa avesse fatto in certe ore di certi giorni. Proprio quando quest'ultimo cominciava a sentirsi a disagio, alcuni operai passarono davanti alla porta diretti al suo locale. Michaelis colse al volo l'occasione per andarsene, ripromettendosi di tornare più tardi, ma non lo fece. Forse se ne dimenticò. Tutto qui. Quando uscì di nuovo, poco dopo le 7, si ricordò della conversazione perché udì la voce della signora Wilson, forte e arrabbiata, nel pian terreno della rimessa. «Prendimi a botte», la udì gridare. «Buttami a terra e prendimi a botte, sporco vigliacco». Un momento dopo lei correva fuori, nel tramonto, agitando le mani e urlando. Prima che lui potesse muovere un passo, la faccenda era chiusa. La macchina della morte, come fu chiamata dai giornali, non si fermò. Sbucò dall'oscurità incombente, sbandò per qualche tragico secondo e quindi sparì dietro la prima curva. Michaelis non era nemmeno certo del colore. Al primo poliziotto disse che era verde chiaro. L'altra auto, quella che andava verso New York, si fermò un centinaio di metri più avanti. La persona alla guida tornò di corsa fino al punto in cui Myrtle Wilson, la sua vita violentemente spezzata, era in ginocchio sulla strada e mischiava il proprio sangue denso e scuro alla polvere. Michaelis e quest'uomo furono i primi a raggiungerla, ma quando le aprirono la camicetta ancora bagnata di sudore videro che il suo seno sinistro penzolava come un lembo di stoffa e non c'era più nessun bisogno di auscultare il cuore sottostante. La bocca era spalancata e squarciata agli angoli, come fosse quasi soffocata, nel vomitare l'immensa vitalità che aveva tenuto dentro tanto a lungo. Vedemmo 3 o 4 automobili e la folla quando eravamo ancora a una certa distanza. «Un incidente», disse Tom. «Ottima cosa, Wilson farà un po' di affari finalmente». Rallentò, ma senza ancora l'intenzione di fermarsi, finché mentre ci avvicinavamo, le facce ammutolite e assorte delle persone davanti alla rimessa lo indussero a premere distinto i freni. «Diamo un'occhiata», disse dubbioso, «giusto uno sguardo». Fu a questo punto che mi resi conto del suono innaturale e straziante che fuoriusciva senza posa dal garage. Mentre scendevamo e ci avvicinavamo alla porta, prese la forma delle parole «Oh mio Dio!», ripetute a più non posso in un lamento affannato. «C'è un problema serio qui», disse Tom eccitato. Si alzò in punta di piedi e sbirciò da sopra un cerchio di teste all'interno del garage, rischiarato soltanto da una luce gialla che pendeva dall'alto in un canestro di fil di ferro. Quindi gli uscì dalla gola un verso stridulo e con un gesto violento conficcò le braccia nerborute nella ressa e si fece largo. Il circolo si richiuse con un mormorio di forte disappunto, un attimo prima che io riuscissi a vedere qualcosa. Dopodiché dei nuovi arrivati portarono un po' di scompiglio e io e Jordan ci ritrovammo ad un tratto sospinti all'interno. Il corpo di Myrtle Wilson, avvolto in una coperta e poi in un'altra coperta ancora, quasi patisse il freddo in quella notte torrida, giaceva su un tavolo da lavoro accostato alla parete e Tom, la schiena rivolta verso di noi, vi stava chino sopra, immobile. Accanto a lui un agente della polizia stradale appuntava nomi su un taccuino, grondando sudore e facendo molte correzioni. Da principio non mi riuscì ad individuare la fonte dei gemiti acuti che riecheggiavano con veemenza nel garage spoglio. Poi vidi Wilson, in piedi sulla soglia rialzata del suo ufficio, oscillare avanti e indietro, le mani aggrappate ai montanti della porta. Qualcuno gli parlava a bassa voce, tentando di quando in quando di poggiargli una mano sulla spalla, ma Wilson non sentiva e non vedeva. I suoi occhi scendevano lentamente dalla luce che pendeva dal soffitto al tavolo contro la parete, per poi tornare di scatto alla luce, al che lui riprendeva incessante quel suo richiamo orribile. «Oh mio Dio! Oh mio Dio! Mio Dio! Mio Dio!» A questo punto Tom sollevò il capo con uno strattone e, dopo essersi guardato attorno con occhi vitrei, bofonchiò qualcosa di incoerente all'indirizzo del poliziotto. «M-A-V», diceva la gente. «No, R», corresse l'altro. «Mi stia a sentire», mormorò Tom furioso. «R», disse il poliziotto. «Oh, G», alzò lo sguardo quando la grossa mano di Tom gli piombò decisa sulla spalla. «Si può sapere cosa volete, amico?» «Cos'è successo? Voglio sapere cos'è successo.» «È stata investita da un'auto, morta sul colpo.» «Morta sul colpo», ripete Tom, spiritato. «È uscita di corsa per strada e quel figlio di puttana non si è manco fermato.» «Le auto erano due», disse Michaelis. «Una andava e una veniva, capite?» «Andava dove?» chiese la gente, spazientito. «Ognuna andava in una direzione, insomma lei...» La sua mano si levò verso le coperte, ma si fermò a metà strada e gli cadde sul fianco. «Lei è corsa fuori e quella che veniva da New York le è finita dritta addosso. Andava a 50, 60 all'ora.» «Che nome ha questo posto?» domandò il poliziotto. «Non ha nessun nome.» Un negro, pallido e ben vestito, si avvicinò. «Era una macchina gialla», disse, «una grossa macchina gialla, eppure nuova.» «Hai visto l'incidente?» chiese il poliziotto. «No, ma la macchina mi ha sfiorato. Andava più veloce di 60, andava a 80, forse persino più di 90. «Vieni qui e dimmi il tuo nome, fate spazio adesso, voglio prendere il suo nome.» Un brandello di questa conversazione dovette giungere alle orecchie di Wilson, che ancora oscillava sulla porta dell'ufficio, perché d'improvviso un nuovo tema trovò voce tra le sue grida spezzate. «Non serve che mi diciate il tipo di macchina, io so che tipo di macchina era.» Nel guardare Tom, vidi la massa muscolosa delle spalle irrigidirsi sotto la giacca, si mosse rapido in direzione di Wilson, gli si piazzò davanti e lo afferrò deciso per le braccia. «Devi riprenderti», disse con tranquillizzante brutalità. Gli occhi di Wilson si posarono su Tom, fece per alzarsi sulla punta dei piedi e sarebbe di certo crollato sulle ginocchia se Tom non l'avesse sostenuto. «Ascolta», disse Tom, scuotendolo un poco, «sono arrivato solo un minuto fa da New York. Stavo per portarti la coupé di cui abbiamo parlato. L'auto gialla che guidavo questa mattina non era mia, mi hai sentito? È da questo pomeriggio che non la vedo.» Soltanto io e il negro eravamo abbastanza vicini da udire quel che diceva, ma il poliziotto colse qualcosa nel suo tono di voce e scrutò la scena con occhi torvi. «Che succede adesso, vuole sapere?» «Sono un suo amico.» Tom girò la testa ma tenne le mani salde sul corpo di Wilson. «Dice di conoscere l'auto responsabile dell'incidente. Era una macchina gialla.» Qualcosa indusse il poliziotto a dare un'occhiata sospettosa a Tom. «E di che colore è la vostra auto?» «È un'auto blu, una coupé. Siamo arrivati adesso da New York», dissi io. Qualcuno che viaggiava poco dietro di noi confermò e il poliziotto volse altrove la sua attenzione. «Ripetetemi questo nome adesso, nella maniera giusta, però.» Tom sollevò di peso Wilson come fosse una bambola, lo portò all'interno dell'ufficio, lo sistemò su una sedia e tornò indietro. «Qualcuno venga qui e stia con lui», ordinò bruscamente. Restò a osservare i due uomini a lui vicini scambiarsi un'occhiata ed entrare controvoglia nella stanzetta. Dopodiché chiuse la porta e scese l'unico gradino, evitando di guardare il tavolo. Nel passarmi accanto bisbigliò: «Andiamo.» Un po' a disagio, con le braccia autoritarie di Tom a farci da ariete, ci aprimmo un varco tra la gente che seguitava ad accalcarsi, oltrepassando un dottore trafelato con tanto di valigetta, chiamato d'urgenza mezz'ora prima nella folle speranza che potesse fare qualcosa. Tom guidò a velocità moderata finché non fummo oltre la curva, quindi affondò il piede e la coupé schizzò nella notte. Nel giro di pochi istanti udii un singhiozzo, roco e sommesso, poi vidi le lacrime che gli scendevano sul viso. «Vigliacco maledetto», piagnucolò. «Non si è nemmeno fermato.» Say you're lonely. Said you cry the whole night through. Well, you can cry me a river. Cry me a river. cause I cried a river over you. Now you say you're sorry for being so untrue. So what? Just cry me a river, cry me a river. I cried a river over you. You drove me, nearly drove me out of my head, while you never shed a tear. Remember, I remember all you said. Told me love was too plebeian. Told me you were through with me. And now say you love me. Well, just prove you do. Go on and cry me a river. I'd like to see you cry a river. 'Cause I'm tired of crying over you. La casa dei Buchanan ci venne incontro all'improvviso, in mezzo a uno stormire di alberi neri. Tom si fermò accanto alla veranda e alzò gli occhi al secondo piano, dove due finestre risplendevano di luce tra i rampicanti. «Daisy è a casa», disse. Mentre scendevamo dall'auto, lanciò uno sguardo e si ancigliò leggermente. «Avrei dovuto lasciarvi a West Egg, Nick. Stasera non c'è nulla che possiamo fare». Era subentrato un cambiamento in lui e parlò in tono solenne e deciso. Nel camminare sulla ghiaia rischiarata dalla luna, liquidò la faccenda con un paio di frasi sbrigative. «Chiamerò un taxi che vi porti a casa. Nell'attesa, tu e Jordan fareste bene ad andare in cucina per farvi preparare qualcosa per cena, ammesso che abbiate fame». Aprì la porta. «Entra». «No, grazie, ma ti sarò grato se mi chiami un taxi, lo aspetto fuori». Jordan posò la mano sul mio braccio. «Non vuoi entrare, Nick?» «No, grazie. Non mi sentivo granché bene e volevo restare solo». Ma Jordan indugiò per un altro istante. «Sono soltanto le 9:30», disse. «Non sarei entrato manco morto. Ne avevo avuto abbastanza di tutti loro per quella giornata, ed un tratto anche Jordan era inclusa nel novero. Dovette capire qualcosa dalla mia espressione, perché si voltò di scatto, salì di corsa ai gradini della veranda ed entrò in casa. Mi sedetti per qualche minuto con la testa nelle mani, finché udii il ricevitore che veniva sollevato e la voce del maggiordomo che chiamava un taxi, al che mi incamminai per il viale, intenzionato ad attendere l'auto al cancello. Mi ero allontanato di una ventina di metri quando sentii chiamare il mio nome e Gatsby sbucò tra due cespugli. Non dovevo essere al meglio delle mie facoltà, perché non mi riuscii di pensare a nulla fuorché alla luminosità della sua giacca rosa sotto la luna. «Dove stai andando?» chiesi. «Me ne stavo qui e basta, vecchia Lenza». Per qualche ragione mi sembrò un'occupazione spregevole. Per quel che ne sapevo, avrebbe potuto svaligiare la casa da un momento all'altro. Non sarei rimasto per nulla sorpreso nel vedere spuntare qualche faccia sinistra alle sue spalle, le facce della cricca di Wolfsheim. «Hai visto niente di brutto sulla strada?» chiese un istante dopo. «Sì», esitò. «È morta?» «Sì, è quello che pensavo. Io l'ho detto a Daisy che pensavo fosse morta. È meglio che sia successo tutto d'un colpo, ha retto abbastanza bene». Parlava come se la reazione di Daisy fosse la sola cosa che contasse. «Sono arrivato a West Egg per una strada secondaria», proseguì, «e ho lasciato l'auto nel mio garage. Credo che nessuno ci abbia visto, ma ovviamente non posso esserne certo». A questo punto la mia ripugnanza per lui fu tale che non trovai necessario dirgli che si sbagliava. «Chi era la donna?» si informò. «Si chiamava Wilson, suo marito è il proprietario della rimessa. Ma come diavolo è successo?» «Beh, io ho cercato di girare il volante». Si interruppe per il improvviso di mezz'ora. «Era Daisy a guidare?» «Sì», disse dopo un attimo di pausa. «Ma ovviamente dirò che ero io. Vedi, quando siamo partiti da New York, lei era molto nervosa e pensava che guidare l'avrebbe calmata. E poi questa donna ci è schizzata davanti mentre passavamo accanto a una macchina che veniva nel senso opposto. È successo tutto in un attimo, ma mi è sembrato che la donna volesse parlarci. Ho pensato che ci conoscesse. Comunque, in un primo momento, Daisy ha sterzato per evitarla puntando verso l'altra macchina, ma poi si è spaventata e ha sterzato di nuovo. Nell'istante in cui ho afferrato il volante c'è stato l'impatto. Deve essere morta sul colpo. L'ha squarciata. Non dirmi niente, vecchia Lenz. Fece una smorfia. Ad ogni modo, Daisy ha proseguito dritto. Ho cercato di farla fermare, ma lei non ci riusciva, così ho tirato il freno a mano. Allora mi è crollata in grembo e mi sono messo alla guida. Domani starà bene, disse subito dopo. Aspetto qui solo per vedere se lui le darà il tormento per quanto è successo in questo spiacevole pomeriggio. Si è chiusa a chiave in camera e se lui dà in escandescenza lei mi farà segno spegnendo e riaccendendo la luce. Non la toccherà, dissi. Non è a lei che pensa adesso. Non mi fido di lui, vecchia Lenz. Quanto resterai ad aspettare? Tutta la notte, se necessario. Perlomeno finché non sarà andato tutto per dormire. Mi venne in mente un'altra eventualità. Immaginai che Tom scoprisse che c'era Daisy alla guida. Avrebbe potuto pensare che ci fosse un collegamento. Avrebbe potuto pensare qualunque cosa. Guardai la casa. C'erano due o tre finestre illuminate nel piano inferiore, mentre al secondo si scorgeva il bagliore rosa della stanza di Daisy. Aspetta qui, dissi. Vado a controllare se c'è qualche segno di agitazione. Mi incamminai lungo il bordo del prato, attraversai il viale di ghiaia cercando di non fare rumore e salii in punta di piedi i gradini della veranda. Le tende del soggiorno erano aperte e vidi che la stanza era vuota. Passando per la veranda, dove avevamo cenato quella sera di giugno, 3 mesi prima, giunsi a un piccolo rettangolo di luce e immaginai si trattasse della finestra della dispensa. La tenda avvolgibile era abbassata, ma trovai uno spiraglio sul davanzale. Daisy e Tom erano seduti ai capi opposti del tavolo della cucina, tra loro un piatto di pollo fritto freddo e 2 bottiglie di birra. Lui le parlava in modo deciso, e nella foga la mano gli era caduta su quella di lei, coprendola. Ogni tanto lei sollevava lo sguardo e faceva cenni d'assenso col capo. Non erano felici. Nessuno dei due aveva toccato né il pollo né la birra. E tuttavia, non erano neppure infelici. La scena era pervasa da un'inconfondibile atmosfera di naturale intimità. Chiunque avrebbe detto che stessero complottando qualcosa. Mentre lasciavo in punta di piedi la veranda, udii il taxi avanzare nel buio, lungo la strada che conduceva alla casa. Gatsby aspettava sul viale, nel punto in cui lo avevo lasciato. «È tutto tranquillo?» domandò ansioso. «Sì, è tutto tranquillo.» Esitai. «Sarebbe meglio che tornassi a casa e dormissi un po'.» Scosse il capo. «Voglio aspettare qui finché Daisy non va a dormire. Buonanotte, vecchia Lenz.» Infilò le mani nelle tasche della giacca e si voltò, impaziente di tornare a scrutare la casa, come se la mia presenza disturbasse la sacralità della veglia. Così mi avviai e lo lasciai lì, al chiaro di luna, a piantonare il nulla. Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong, the man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay. He'll look at me and smile, I'll understand. Then in a little while he'll take my hand. And though it seems absurd, I know we both won't say a word. Maybe I shall meet him someday, maybe Monday, maybe not. Still I'm sure to meet him one day, maybe Tuesday will be my good news day. He'll build a little home that's meant for two, from which I'll never roam. What would you? And so all else above, I'm dreaming of the man I love. Mm-hmm.